Che non sai, di vita vissuta solo sul website. Non sarà laggiù, non ti vesti solo fugo. Ma guardati nell'animo, alla fine resti nudo. Un biglietto, lo metto nel tuo cappellino stretto. Te lo spedisco per posta, lo lascio nel cassetto. Il tempo passa, si dice che migliora. Ma detto che fai il rap, sì, ma da mezz'ora. Ora fa, sono contento, io non la cerco ma mi sento. Me stesso in ogni istante non mi pento. Di essere diverso, diverso dai tuoi canoni. Ti lascio parlare, sì, ma dopo guardati e la prendi seriamente. Gioco per la gente, io non sento mai niente. Ma poi in realtà chi mente? Restiamo sulla nostra, giriamo su sta giossa. Tanto che te agata, vediamo chi si sposta. Sei, è più simpatico di me, tu hai molti più amici di me, tu hai in molti posti più di me. Quindi non parlarmi, stai lontano da me. Il mio cervello gira loop ormai da troppo tempo. Ho visto tante facce ma poi senza sentimento. Perché non vivo bene se ne ride ma contento. Panche sulla spalla cazzo cappa d'accidente. Vivo il mio momento, non cerco troppe glorie. Indietro troppi scazzi ma davanti troppe storie. Gente poco seria, gente poco vera. Gente che un bel giorno poi mi manderà in galera. Il sogno di una sera sta tranquillo non s'avvera. Perché ho capito dopo che non vali una sega. Non faccio una piega per gente che poi nemmeno c'era. Piacerebbe fermarmi, sai che non posso. Io non mi atteggerei tanto se fossi al tuo posto. Anzi cercherei una maniera per imparare. Non basta sentire, cazzo devi ascoltare. Ma quali sono i tuoi cazzo di valori? Si vede che non te le davano i tuoi genitori. Tanto dopo cresci lo sai che son dolori. Goditela adesso perché tra un mese sei fuori. E non parlare di chi gira con me. E non spacciare stronzate per re. E vattene, ma che cazzo vuoi da me? E statene, coi pagliacci come te. Tu sei, e più simpatico di me. Tu hai, molti più amici di me. Tu hai, e molti posti più di me. Quindi non parlare, stai lontano da me. Tu sei, e più simpatico di me. Tu hai, molti più amici di me. Tu hai, e molti posti più di me. Quindi non parlare, stai lontano da me. Ok, lo fai.